YouTube Social Village di Marta Cagnola. Ed eccoci arrivati come sempre insieme a quest'ora del sabato con RadioTube, ma come sapete il sabato prima della finale di Sanremo è quello dedicato al nostro speciale. Sì, perché abbiamo seguito il festival durante tutta la settimana nei programmi di Radio 24, nei giornali radio. Adesso è il momento di fare un racconto un po' di quello che abbiamo visto e sentito in questi giorni. Però soprattutto è il momento di partire dal bilancio. Lo facciamo tradizionalmente, ormai sono già molti anni, con il direttore di TV Sorrisi e Canzoni, Aldo Vitali. Ciao direttore. Ciao Marta, buongiorno a tutti. Allora, direttore, Amadeus aveva detto che era il Festival dell'Imprevedibilità. Voleva il Festival dell'Imprevedibilità, diciamo che almeno questo... Questo desiderio si è realizzato. Sì, è stato ancora più imprevedibile di quanto fosse prevedibile che fosse imprevedibile. Quindi devo dare atto ad Amadeus di essere stato, di avere rispettato i patti, di avere fatto quello che ci aveva detto. Allora, partiamo un po' dalla fine e non dall'inizio. Partiamo da quello che è successo questa notte con ormai i quotidiani erano già chiusi, i colleghi già avevano scritto i pezzi per la mattina dopo, ma ormai era passata l'una, eravamo attorno alle 2 del mattino. Succede il caso Bugo Morgan. Morgan entra sul palco con un testo cambiato, Bugo si arrabbia e se ne va. Tu cosa hai pensato in quel momento? Allora, io ho pensato che questa qui era, diciamo, l'ultimo capitolo, comunque un ennesimo capitolo, forse probabilmente non sarà l'ultimo, di una storia cominciata, penso, il giorno in cui hanno deciso di prendere la canzone di Bugo con Morgan. Morgan ha detto anche stanotte che lui aveva fatto un favore a Bugo, perché sennò Bugo non sarebbe stato preso al festival senza di lui, cosa che credo sia vera. E probabilmente Morgan ha vissuto male quello che ha visto come una sorta di tradimento, cioè che una volta al festival la casa discografica, sentendosi, come dire, più sicura con Bugo e un pochino meno protetta con Morgan in giro, abbia tentato un po' un tipo di operazione per cui Morgan veniva messo un po' ai margini. Chiaro che Morgan su questo punto non ci poteva stare. Poi Morgan sappiamo che è molto ipersensibile su certe cose, si è sentito un po' tradito. Poi Morgan è imprevedibile più del festival di quest'anno e quindi è scoppiato il patatrac. Vabbè, ce ne ricorderemo di questo episodio della notte. Io poi purtroppo non posso essere molto obiettivo, perché ho veramente un grandissimo amore, oltre che una grande stima per Morgan, quindi sono portato a perdonarlo anche se sbaglia qualcosa. Questa volta il danno è stato grosso per tutte e due, però. Infatti, Morgan ha questa abilità di farsi male da solo tante volte nella sua vita, gli è successo. Allora, invece. Il festival era partito con le polemiche sul sessismo e al di là del divertimento che ormai è diventato tutto un ismo sul palco, cosa dici delle tante donne che si sono così susseguite appunto sul palco dell'Ariston e continueranno a farlo stasera? Ma guarda, questo festival è un festival che è difficile da analizzare così anche a caldo, perché ha tantissime anomalie rispetto al canone. Una di queste è appunto il fatto che ci siano così tante diverse presenze femminili ogni sera, anche diciamo diverse tra loro, no? Per cui ieri sera per esempio avevamo una debuttante come la Novello e una prima donna della televisione, voglio dire proprio numero uno, come Antonella Clerici. Alla fine, sinceramente, devo dire che per quanto siano state tante le donne, siano stati fatti sicuramente dei monologhi, dei pezzi molto interessanti sulla violenza e molto giusti sulla violenza contro le donne, tutto quanto, mi sembra che la sostanza del ruolo femminile nel festival non sia cambiata, ovvero c'è un presentatore, un conduttore, anzi quest'anno poi ce n'erano più di uno, cioè uno e mezzo, diciamo uno e tre quarti. E le donne hanno avuto un ruolo secondario. Quindi non mi sembra che questa sia una cosa, che aggiungere quantità alla presenza femminile non ha portato necessariamente qualità, anche se devo dire che poi tutte sono state molto carine e molto brave nel loro compito, anche se però, ripeto, se fossero state una invece di 10, avrebbero avuto sempre, avendo sempre questo ruolo qui, non sarebbe cambiato molto nella funzione della donna nel festival. Sono d'accordo con te. Hai parlato di un conduttore tre quarti, perché c'è il ruolo di Fiorello, beh, lui irresistibile, però effettivamente è stato un po' strano, anche per Amadeus, che comunque lo conosce bene, avere una presenza così, mi ripeto, imprevedibile, tanto che una sera non c'è stato. Come la giudichi questa esperienza? Ma guarda, a me ha allora, io penso che il fatto che, per esempio, giovedì sera, la sera in cui non c'era Fiorello, il festival abbia battuto ogni record, perché è stata la serata con il risultato dell'audit il più clamoroso, dimostra che Fiorello è importantissimo, ma non è indispensabile. Quindi questa è la prima cosa. Poi, la seconda cosa che a me è piaciuta moltissimo è questa grande amicizia che è diventata spettacolo nel festival, cioè penso che tra loro non ci sia proprio, c'è un'amicizia, un legame talmente forte che tutto quello che possiamo pensare noi, Amadeus geloso di Fiorello, Fiorello invadente in un festival non suo, siano parole al vento, perché la vera cifra, secondo me, di questo festival è stato il forte rapporto di amicizia tra loro. E poi anche il fatto che i ruoli, comunque io ho detto sì, un conduttore tre quarti, ma i ruoli tra loro erano ben chiari e ben distinti. Quello di un conduttore, di un, chiamiamolo così, guastatore. Hai detto ascolti alti, tu te le aspettavi delle medie di ascolto così forti? No, sinceramente così no. Pensavo che sarebbe stato un festival di successo perché, diciamo, Amadeus è una figura che da tempo porta dietro di sé un successo nelle cose che fa. Quindi penso non solo ai Soliti Ignoti, ma penso a Ora o Mai Più, che è un programma che Amadeus ha portato a un successo molto superiore a quello che si pensava. Quindi Amadeus ha uno zoccolo duro di credibilità da parte del pubblico che sicuramente, e di fiducia che sicuramente avrebbe portato ascolti. Poi vabbè, Fiorello è una macchina d'ascolti, quindi sicuramente mi aspettavo un risultato così alto, ma non così alto perché non avevo previsto che questo affollamento del palcoscenico dell'Ariston con continui ospiti aggiungesse valore alla proposta. Ieri sera a mezzanotte abbiamo calcolato che mancavano ancora 14 canzoni in gara da essere presentate, e 14 canzoni in gara sono quelle di tutto un festival di Fazio, quindi era come se dell'ultimo festival di Fazio, quindi era come se il festival di Sanremo di Fabio Fazio fosse cominciato a mezzanotte. Questo all'inizio pensavo che potesse essere un handicap, invece è il contrario, è il contrario. È evidentemente diluire la gara all'interno di uno spettacolo di 5-6 ore provoca questo. Cioè, ho paura che l'anno prossimo ci saranno degli spettacoli di 7-8 È ore. questo il problema, perché diciamo già la televisione quest'anno, con due esempi che sono Mediaset, non Rai, e parlo del programma della D'Urso, di Live non è la D'Urso e del Grande Fratello, che si penetrano nel cuore della notte, quindi alzando uno share e arrivando ai 20% di share, che sono cifre molto importanti, grazie al fatto che si trascinano nel cuore della notte e arrivano quasi a 1:30, 2 di notte, diciamo è un, diciamo una tendenza. Il festival ha, come dire, caricato su questa tendenza e quindi c'è il pericolo, o forse evidentemente non il pericolo, perché c'è comunque questa, la possibilità che succeda sempre di più. Ti faccio la domanda flash. Secondo te 2021 è Amadeus Bis o... Allora, visti i risultati, mi sembra difficile che non venga, come dire, confermato, però ci sono diverse cose da pensare, che nel 2021 non è detto che il debito diciamo, il patto tra amici di 35 anni fa tra Amadeus e Fiorello valga ancora, quindi non è detto che Fiorello torni anche l'anno venturo, primo. Seconda cosa, bisogna vedere che tipo di cosa può avere in mente di alternativa Amadeus, anche perché quest'anno questo affollamento che Amadeus ha voluto era anche, come dire, giustificato dai 70 anni del festival, cioè da una cifra tonda di anniversario, mentre il 71esimo bisognerà fare qualcosa, diciamo, di meno roboante. Poi la terza grande incognita, secondo me, che è anche la più divertente, è che, come abbiamo visto quest'anno, il nuovo direttore di Rai 1 è stato nominato una decina di giorni prima del festival e si è, come dire, preso un festival che in realtà apparteneva a un altro direttore di Rai 1. E bisogna capire A, se l'attuale direttore di Rai 1 sarà ancora direttore di Rai 1, perché girano come i calciatori praticamente, i direttori di rete nella Rai, e B, che idee può avere Coletta alternative o ad Amadeus, oppure con Amadeus a un format di programma. Quindi io non ho idea di cosa possa succedere, ma già non ho idea di cosa possa succedere stasera. Infatti, Quindi parlare di un anno mi sembra veramente azzardato. sai cosa c'è, direttore? A me tutti a casa chiedono chi vince, chi vince. Quando io dico che quest'anno sinceramente non l'ho ancora capito, sono tutti molto delusi, ma anche tu hai questa sensazione? Sì, ci può succedere di tutto. Diciamo che la cosa meno chiara è cosa farà il televoto, però il televoto conta alla fine per tutte le votazioni, per l'accumulo di votazioni, per questo meccanismo che è più complesso del Mattarellum. Il televoto conta per l'8%, quindi conta molto poco, conta molto di più la demoscopica, conta molto di più l'orchestra, conta molto di più la sala stampa. Quindi l'ingresso del televoto avrà probabilmente un valore che può essere decisivo solo se ci sono questi tre o quattro nomi molto vicini. Allora sì. Se invece i tre o quattro nomi sono già abbastanza delineati, il televoto rischia di essere secondario. Infatti, tutte le previsioni che noi facevamo anche su personaggi che hanno una forte fan base, come appunto Urso, Giordana, Angi, Ricky, che sono tutti molto in basso in classifica, anche se il televoto li aiuterà, non li potrà mai portare nei primi posti, perché è troppo poco influente. È complicatissimo, se lo dice Esatto. anche il direttore Vitali, dovete pacificarvi, è così, è troppo complicato quest'anno. Grazie direttore, grazie al direttore di TV Sorrisi e Canzoni, Aldo Vitali, ti aspetto in studio. Certo, grazie mille Marta, è sempre un piacere chiacchierare con te ed essere su Radio 24. Ciao. Radio Tube Social Network. Siamo figli di Steve Jobs e del T9. Siamo Lego in mezzo al traffico di Playmobil. Siamo strade pulite sotto un cielo Pantone. Campi sintetici, calzini bianchi di cotone. Ed anche ad occhi chiusi non è detto che dormiamo. E stando più vicini non è vero che parliamo. È solo un'impressione sulle pellicole in bianco e nero, subito dopo il flash, noi siamo già scomparsi. Da quando la gente non si trova più, ci siamo bastati. Da quando il fuoco non brucia più, siamo disorientati. Da quando Archimede non eureka più, siamo affondati. Da quando la ruota non è girata più, siamo quadrati. siamo quadrati. Guarda lo tsunami che travolge la città, dentro la mia testa calma piatta. Guarda lo tsunami che travolge la città, mentre tutto intorno fonda, qui si balla, qui si balla. Cia cia cia. Questo Festival di Sanremo si è battuto un record che è quello della partecipazione più breve, ma questo record ha reso i protagonisti tra i più amati, forse i più amati dell'edizione. E su una terrazza che guarda non il Golfo di Sorrento ma il Mar Ligure, beh, bellissimo, a quest'ora, meraviglioso, io sono con gli Eugenio in Via di Gioia, ragazzi. Ciao a tutti. Beh, intanto bentornati a Radio 24, perché voi ci avete già onorato con la vostra presenza con il pianino giocattolo della Lidl, le cose che c'era, la frutta di plastica. Sì, ecco. Ragazzi, chi mi racconta di voi questa esperienza davvero... No, io non so come definirla, una scudisciata. Uno tsunami breve ma intenso. Un'altalena di emozioni. Esatto. Ed era un'altalena, perché? Sì. Perché un'altalena? Perché noi abbiamo iniziato con questo percorso di preparazione, quindi che emozione possiamo associare a questo percorso? Di grande tensione, di concentrazione, speranza. Speranza e concentrazione. Concentrazione non credo sia un'emozione. E neanche speranza. Che cavolo è? Che emozione è? Una nuova emozione. Ma da quando è partito questa speranzione? Quando avete iniziato? Abbiamo iniziato a parlare di Sanremo, perché abbiamo... 2 mesi fa almeno 2 mesi che siamo così speranzosi del fatto appunto di partecipare. Siamo arrivati qua, eravamo carichissimi, perché poi c'erano, dovevi vestirti, dovevi andare con l'orchestra, quindi fare tutto l'arrangiamento che ha fatto Emanuele Via, dovevi fare le prove, quindi eravamo saliti carichissimi e abbiamo detenuto questo record. Quindi dal punto di vista dell'emozione è stato molto bello, è stata anche una bella batosta, appunto l'altalena è stata wow, e poi Di nuovo con il commento di Adriano Celentano, quindi un'altra, quindi stiamo vivendo dei picchi. Lasciateci tranquilli, perché non, il nostro corpo non regge. Esatto, questo. Davvero, ragazzi, questa cosa secondo voi, allora intanto vi chiedo se il vostro pezzo è stato abbastanza capito, perché comunque Tsunami non era un pezzettino proprio di quelli facili da assorbire al primo ascolto. Certo, non erano inediti i pezzi dei giovani, però insomma, per la giuria demoscopica... Vai Eugenio, vai. Volevo dire, ecco, questo è stato esattamente il dubbio che c'è venuto nel momento in cui anche siamo stati eliminati, per riprendere la domanda di prima, no? Noi siamo tornati a casa distrutti, no? In qualche modo, perché abbiamo anche pensato, ma magari non è stato capito, abbiamo sbagliato qualcosa anche noi, magari abbiamo anche fatto una performance scarsa. Quando però ci siamo rivisti, il nostro stato d'animo è cambiato tantissimo, perché quando è uscito il video di YouTube della performance ci siamo resi conto che l'orchestra aveva suonato benissimo, il maestro Cipolla era stato clamoroso e noi eravamo stati anche abbastanza precisi. Neanche in tutte le prove non era mai venuto così bene il brano, quindi su quello siamo veramente rilassati e soddisfatti. E in più la grande ondata che ci è arrivata, non solo come diceva prima Emanuele di Celentano, ma da tutti i nostri fan e dalle nuove persone che non avevano mai sentito la nostra canzone neanche durante le selezioni e che per la prima volta avevano ascoltato Tsunami, ci ha fatto veramente credere che alla fine il contesto del concorso non fosse che un orpello di spettacolo, mentre la vera vittoria sta al di là della competizione. Ad esempio nell'affetto che poi vi ha travolto, perché appunto questa cosa buffa del 8 minuti di festival, il messaggio di Adriano Celentano e siete diventati star dell'altro festival, intervistatissimi, cercati dappertutto, alla fine, serendipità, alla fine è andata bene, cosa dite? Anzi, forse addirittura meglio, perché noi siamo arrivati qui in bicicletta, abbiamo fatto un grande percorso, un po' come Ulisse, cioè abbiamo preso questo viaggio verso Sanremo come un viaggio personale con una serie di mezzi alternativi. Abbiamo scelto il treno, il bus, i piedi e infine la bicicletta insieme ai nostri fan, ed eravamo molto felici di questo. E quindi fin dai primi giorni abbiamo portato il nostro spirito, che è quello di essere scanzonati e un po' esuberanti, e la paura è che la gente pensasse che fossimo così perché ce la credessimo, no, in qualche modo. Questo nostro aver perso ma aver mantenuto l'atteggiamento scanzonato e allegro, secondo me ha creato anche un po' un cortocircuito nella mente di chi ci vedeva. Diciamo, ma caspita, questi sono usciti, eppure sono sfigati, ho fatto 8 minuti che c'è, io anche felice, cioè, si è creata una sorta di empatia. Il fatto, esatto, abbiamo suonato e siamo stati eliminati subito, detto, quindi tutta la gente: no, ma poverini, ma che bravi. In realtà siamo depressi, stiamo prendendo dei tranquillanti. No, però però davvero, sia la stampa, sia i nostri fan, ma tutti, sia anche gente nuova. Sì, e la cosa che ci fa più piacere, e naturalmente sulla demoscopica ci sarebbe da parlare tanto, ma abbiamo capito che comunque... Sì, perché c'era forse uno scarto di 2-3 voti. Erano tre persone, però la cosa che ci ha fatto più piacere sono stati proprio i musicisti, che ci hanno elogiato, ci hanno premiato, e quindi questa cosa ci fa piacere e ci dà sicurezza. Diciamo che non è tanto il rimpianto di dire: caspita, potevamo andare avanti nel torneo, fra virgolette. Diciamo che il nostro dispiacere è non suonare un'altra volta. Poi della competizione ci interessa, ma Sanremo si sa che il risultato della competizione conta marginalmente. Però i giovani negli altri anni potevano suonare durante tutte le sere del festival, quest'anno per alcuni tipo noi non è così, questo è il dispiacere. Però per il resto sta andando bene, quindi siamo contenti. Ragazzi, in questi anni le avete fatte di tutti i colori, a parte avere suonato su un treno fermo per ore, bloccato nella neve, piantare una foresta. Anzi, il vostro disco che sta uscendo, mi piace moltissimo perché Tsunami, forse vi ricorderete di noi per canzoni come, e anche lui è ecologicamente sensibile, è tutto, continuate con il viaggio di natura viva, insomma, sì, continuate con questa... Perché il nostro pensiero è proprio questo: non esistono azioni che ti rendono un'icona e ti rendono un idolo per il quale poi la gente ti debba seguire e in qualche modo estremizzare tutto ciò che è ambientalismo e sostenibilità. Esistono tante piccole scelte quotidiane che ognuno può fare per rendersi parte di un viaggio comune, no? Quindi la collettività è fatta di persone pensanti. Noi piace pensare che se ognuno di noi fosse un po' più consapevole, probabilmente potrebbe veramente cambiare il mondo. E quindi noi abbiamo scelto di fare questo disco in carta erba, totalmente con carta riciclata e riciclabile, così che tutto il nostro percorso continuasse al di là, appunto, come hai detto tu, della foresta che abbiamo piantato, che andremo a tutti gli effetti a seminare tra qualche mese. Continuare in tutte le azioni che contraddistinguono il nostro lavoro a fare attenzione. È come quando una persona va a fare la spesa e decide di prendere un prodotto piuttosto che un altro, e allora lì sta compiendo una rivoluzione vera, non quando scende in piazza e manifesta coi cartelloni. Quello è un atto di sensibilizzazione, l'altro è un atto di presa di posizione, che sono due cose un po' diverse. Avete fatto delle cose folli qui a Sanremo, anche suonare in una piazza meravigliosa, il quartiere più bello di Sanremo, che è La Pigna, che è la piazza dove c'è l'Oratorio dei Dolori, e con un personaggio singolare, con un burattinaio, con dei burattini fatti di tronchi di legno. Avete messo in scena uno spettacolo di magia che così... era un po' un lato B rispetto al carrozzone sanremese. Voi a un certo punto avete deciso di fare anche una cosa così intimista e più vicina a quello che avete fatto poi per anni, immagino. Sì, diciamo che è andata così. Allora, cercavamo un luogo in cui cenare, abbiamo trovato questo ristorantino in questa piazzetta, e quando abbiamo finito di suonare, Eugenio ha notato qualcosa di strano, di diverso. Sì, praticamente questi uomini stavano parlando di pernici e copernici e animatamente stavano discutendo sul fatto che uno di loro non sapesse la differenza e l'altro gli dice: sei un ignorante, tu ti dici... E sfido chiunque a sapere la differenza fra pernici e copernici. Non ho idea, assolutamente. La cosa incredibile è che queste persone erano artisti di strada, appunto, come dicevi tu, marionettisti, un architetto, un disegnatore, sai cosa mi ha ricordato? Il momento del tè in Alice del Paese delle Meraviglie. Quella situazione lì. Personaggi stravaganti. Quindi noi abbiamo detto: ma noi arrivavamo invece da Ariston, che fotografie, video, tutto impostato, tutto quadrato. E quindi ci siamo trovati in un luogo più strano ma vero, verissimo. E quindi ci siamo messi alla fine a giocare a scacchi, a parlare di scopone scientifico e a improvvisare sulle note blues con uno che suonava l'armonica a bocca. Il giorno dopo abbiamo detto dobbiamo tornare assolutamente e far vedere questo luogo a tutti. Allora io vi devo chiedere un'ultima cosa, sperando che il viaggio di Tsunami continui in maniera così rocambolesca ma fortunata. Dovete farmi solo un regalo, mi cantate un pezzettino della mia canzone assolutamente preferitissimissima? Perché dovete sapere che la mia casa è una stazione ed è la mia canzone spreferitissima. Me ne fate un pezzettino solo per me? Ok, va bene. Da dove partiamo, ragazzi? Qui si viaggiare e poi le ritorno. Si viaggiare? Vai. Sì, viaggiare evitando le ansie più dure. Sì, viaggiare cogliendo queste sfumature. Codice biglietto, salvietta monodose. Pulisci le mie mani, pulisci queste frasi che sono sporche di te, sono sporche di te, sono sporche di te. One, two, three. La mia casa ha una stazione, la mia vita è una partenza, gli orari, le paure, la mia casa ha una stazione. Oltre quella linea gialla, è proprio lì, che c'è camera mia, proprio lì, che c'è camera mia, proprio lì, proprio lì, proprio lì, che trovi camera mia. Ma quanto sono bravi, quanto adoro gli Eugenio in Via di Gioia, grazie ragazzi, oh, grazie. Grazie a te. Un ragazzino che riceve una lezione di umiltà da un giovane arbitro. Mi ha colpito prima cosa lo sguardo, perché lui mi ha guardato dritto negli occhi, l'avevo colpito. Il tizio che invidia l'amico diventato un cantante di successo, una signora che riscopre il sesso a 86 anni. La signora, per motivi anagrafici, avrebbe potuto essere mia madre. Storie di invidia, di gola, superbia, lussuria, ma anche di eccessi di velocità, di cattivo gusto e di oblio. Storie di vita che parlano di vecchi e nuovi vizi capitali. Questo è ciò che raccontiamo qui a Linee d'Ombra. Linee d'Ombra di Matteo Caccia. Dal lunedì al venerdì alle 15 e il sabato alle 21.30 su Radio 24. Perché le linee d'ombra sono il confine tra ciò che sappiamo e non sappiamo del mondo, ma anche di noi stessi. RadioTube Social Village. E ci ritroviamo insieme con il nostro RadioTube speciale da Sanremo. È il momento di incontrare altri artisti, questa volta tra i big. Cominciamo con Le Vibrazioni. La loro ultima apparizione a Sanremo risale a 2 anni fa, ora sono tornati con Dov'è, una ballad che promette di stringerci il cuore. Cerco di capire quello che non so capire. Fuori vola polline, ho creduto fosse neve. Non mi sento contento, chissà se poi sono io quello allo specchio. Cerco dai vicini la mia dose giornaliera di sorrisi ricambiati per potermi poi sentire socialmente in pace con il mondo e con il mio quartiere. Chiedimi se dove sto, sto bene, se sono felice. Chiedimi qualsiasi cosa, basta che mi dici. Dov'è, dov'è, dov'è, dov'è, dov'è, dov'è, dov'è la gioia, dov'è, dov'è, dov'è, dov'è, dov'è, dov'è, dov'è. Mi chiedo dov'è quel giorno che non sprecherai il cielo rosso, l'orizzonte, l'olio arreso, il bene. Allora, ragazzi, la prima domanda ovviamente è: ma chi ve l'ha fatto fare? Perché Sanremo è bello, come si dice, Sanremo è bello ma non ci vivrei. Chi ve l'ha fatto fare? Chi mi risponde? Francesco? Sanremo è bello se non è Litigarello, perché come ogni anno poi ci sono le solite, no, storie. No, noi l'abbiamo fatto Sanremo perché arrivavamo da... Allora, siamo tornati dopo 5 anni di pausa. Ok, e quindi nel 2018 siamo tornati con Così Sbagliato a Sanremo, perché giustamente dovevamo, insomma, dire a tutti che eravamo tornati. Abbiamo fatto 2 anni di tour singoli, insomma un sacco di belle cose, devo dire, e non ci possiamo lamentare, anzi sono stati 2 anni veramente molto molto intensi, belli e ricchi di soddisfazioni. quest'anno abbiamo pensato, dopo il tour, perché no, voglio dire, andiamo a provare, insomma, a tentare non nuoce. È vero anche che l'abbiamo fatto, insomma, più che a caso, in realtà pensando realmente di provarci. Quindi dopo il tour estivo a settembre già avevamo l'idea di farlo, quindi siamo messi giù a scrivere, a collaborare, a vedere cosa potesse venire fuori. Nel momento in cui è venuto fuori una canzone come questa, abbiamo detto mandiamola, insomma, tanto non può nuocere, no? Bon, saremo... Poi sai cos'è? Un conto farlo ogni 7-8 anni e un altro farlo dopo 2 anni, perché arrivi che sei caldo, no? Quindi l'emozione c'è sempre inevitabilmente, però sicuramente non arriviamo con l'ansia di prestazione, ecco. Infatti il brano è un brano assolutamente una ballad lenta. Così sbagliato era già un po' più da prestazione, capito? Bella questa cosa, che la prestazione, quindi la prestazione delle vibrazioni si misura sul brano più a tempo? No, nel senso che noi, insomma, viviamo ormai questo gap, se vogliamo chiamarlo così, del fatto che siamo sempre stati comunque una rock band, no? Con sonorità molto rock, e dal vivo chi ci ha visto sa bene che lo show è molto rock and roll, molto 70, insomma, abbiamo quello, insomma, è suonato vero, non usiamo né trucco né inganno, quindi quello che si vede è quello che suona realmente. Però il gap qual è? Che nel momento in cui in realtà sono usciti un sacco di brani fin dall'inizio, che erano le famose ballad, molti non sapevano, no, cosa poi realmente poi portassimo dal vivo. E quindi tornare dopo 5 anni di pausa era un po' come dire: no, ok, vibrazioni, rock and roll, però c'era quell'ansia di prestazione, c'è un po' quel voler dimostrare che siamo anche rock and roll, e l'abbiamo dimostrato. Quindi a quel punto penso che ormai si sia capito, e direi che non c'è più quell'ansia di dover dimostrare che siamo rock and roll, basta, cioè basta dirlo, perché insomma rock non è per forza una chitarra distorta o un up tempo, cioè un tempo veloce, può essere benissimo, insomma, una chitarra classica, cioè è un'attitudine, non è come tu suoni. Quindi non è la velocità o la distorsione. E quindi oggi arriviamo sicuramente con l'emozione di suonare, ma non con l'ansia da prestazione, ecco. La ballad, quindi questa volta ci volete un po' strappare il cuore. E poi queste atmosfere sono un po', non so, le ho trovate anche un po' vintage. Voi cosa mi dite? Che ispirazioni avete avuto, anche musicali? Allora, la scrittura è quella lì, nel senso che comunque... Se non è una questione di vintage o no, è una questione che c'è proprio quel modo di scrivere, che probabilmente abbiamo anche ascoltato tanta musica così fin da appena nati a casa nostra, dai nostri genitori, e quindi comunque è radicato sicuramente quel modo che si rifà. Ma noi non pensiamo di farlo vintage, no, proprio volutamente, nel senso, probabilmente viene, in realtà per noi è un pezzo molto moderno, cioè per noi siamo proprio avanti, siamo super, super attuali, che si chiama new vintage, new old vintage, nuovo genere. Quindi, anzi, per noi i suoni sono molto attuali, molto molto moderni. No, scusa, ma in realtà anche quando sono usciti gli Oasis negli anni 90 avevano un sound moderno, ma insomma prendevano di dischi interi dei Beatles. Lennon, da una canzone Lennon hanno fatto per soltanto almeno 3 dischi, ma ben venga. No, sono d'accordo con voi che ben venga, nel senso che forse si torna in un mondo, peraltro in un Sanremo in cui ci sono tante atmosfere musicali diverse, questa è una cosa... Anche dal punto di vista della produzione artistica proprio, cioè noi ci siamo accorti che adesso magari escono delle robe che sono esattamente quello che noi ascoltavamo magari 10 anni fa, cioè comunque sta un po' anche tornando a volte quel modo un po' anni 60 di arrangiare quei suoni comunque vecchi, che però riproposti magari da nuovi artisti, dai ventenni, suonano appunto più nuovi. Quindi noi adesso ascoltiamo le nuove produzioni che in realtà sono quelle già di 20 anni fa. Sì, c'è questa tendenza un po' strana che noi abbiamo sempre avuto di suonare gli strumenti veramente, e quindi adesso... è una cosa veramente singolare oggi, no, per assurdo, però oggi sembra moderno il fatto di suonare veramente gli strumenti, è pazzesco, no? Cioè ormai mettersi con un computerino è già vecchia come cosa, cioè bisogna, se suoni, ma pazzesco, moderno. Più amato dalla stampa, terzo Sanremo per Antonio Diodato, tra i favoriti per la vittoria finale dopo il voto della sala stampa che gli ha permesso di aggiudicarsi la quarta serata del festival. Il suo nuovo disco, Che vita meravigliosa, è appena uscito. Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale, e se ti penso tu sei un'anima. Forse questo temporale che mi porta da te, e lo so non dovrei farmi trovare senza un ombrello, anche se ho capito che per quanto è un fuga torno sempre a te. Che fai rumore qui, e non lo so se mi fa bene, se il tuo rumore mi conviene, ma fai rumore, sì, che non lo posso sopportare, questo silenzio innaturale tra me e te. Antonio, non posso non partire dal fatto che questa vita meravigliosa intanto ti riporta a Sanremo, e voglio sapere perché. Perché quando hai un progetto nuovo lo vuoi così lanciare su quel palco così delicato? Ma sai che è la prima volta che vado al festival anche con un album pronto, perché in realtà poi ho fatto un festival nel 2018 in cui avevo un singolo e basta. Nel 2014 ho fatto il repackaging dell'album, la ristampa, e quindi questa volta si sono incastrate le cose diversamente. Sono anche molto contento perché so che è una grande cassa di risonanza. Questa opportunità, insomma, ti permette di arrivare a tante persone, di mostrare qualcosa di tuo, e poi perché ho sempre avuto un bellissimo rapporto con il festival, quindi riesco a viverlo, tra virgolette, per quanto possibile, anche con una certa serenità. Non vado a fare competizione, ma sono più interessato a cercare di far arrivare un messaggio. Hai raccontato che quando eri ragazzino la cosa che amavi della musica che ascoltavi era che potesse parlare a te. E tu dunque con questo brano, oltre che con questo album, vuoi arrivare al cuore, alla mente, raccontare quello che la gente ha anche bisogno di sentirsi spiegare dalle parole di un altro? La cosa che ho imparato in questi anni è che è fondamentale che essere sinceri e raccontare la propria verità, però quella cosa che racconti in qualche modo deve sapere di te, deve puzzare di te. E che può sembrare la cosa più lontana da un altro essere umano, no? Quell'intimità lì. Ma ho imparato che in realtà è proprio il contrario. Cioè nel momento in cui sei il più vero possibile e riesci a esprimere quel sentimento, quella sensazione, riesci anche a parlare a qualcun altro, cioè qualcun altro si rivede in quella cosa. Sembra un paradosso, ma è così, ed è ciò che mi sta succedendo in questo periodo, anche con Che vita meravigliosa, ed è ciò che spero accada con Fai rumore. Poi sono già molto soddisfatto, perché quando ascolto il brano so che ci sono io, e quindi sono felice di essere riuscito a sintetizzare, a raccontare, a cristallizzare anche quelle sensazioni lì. Non urlare, fare passi piccoli, passare da un primo album, un primo Sanremo con cui ti sei fatto conoscere, un Sanremo con cui hai stupito, poi adesso un pezzo che forse ti ha rivelato come Che vita meravigliosa ha un pubblico ancora più ampio. Sembra quasi una storia non molto contemporanea, potersi prendere un passo per volta la carriera e la vita musicale. Vero, oggi abbiamo esempi molto diversi, però io sono così, credo di essere un maratoneta, non sono un centometrista, non ho quei muscoli. E quindi a un certo punto ho capito che dovevo seguire la mia strada. La mia strada era coltivare il mio giardino con attenzione, far crescere, far diventare più forti queste piante, e piano piano, senza grandi, come dire, grande pubblicità, pian piano la gente cominciato a entrare in questo giardino. Comunque vada, alla fine Sanremo, dopo la serata, un brindisi con un bicchiere di amarone, si canta fino all'alba e così. Ah, io questa, di solito faccio così, poi non so come sarà quest'anno. Spero sia così anche quest'anno, perché rappresenta anche un po' quella leggerezza con cui mi piace. Serietà da una parte, perché sono molto rispettoso di quel palco e quindi sono molto attento fino al sabato, no? E poi ovviamente hai bisogno un po' di rilassarti e sono un grande amante della buona cucina, del vino buono, del gin tonic, quindi sono cose che ti aiutano anche a rilassarti e a divertirti, e quindi spero di divertirmi anche quest'anno. Grazie Antonio. Grazie a te. Ci ritroviamo tra poco ancora con il nostro RadioTube speciale Sanremo. Sono certo che ognuno di voi avrà in casa oggetti straordinari. Avrete sicuramente cimeli di viaggio, cose improbabili che avete ereditato, stranezze indicibili nascoste negli armadi. Fotografate subito le vostre collezioni originali, ricordi di vite passate, i reperti storici che vi tramandate da generazioni. Settimana dopo settimana vorrei raccontare a Melog le vostre storie fuori dall'ordinario, partendo dalle foto degli oggetti straordinari che voi manderete. Tutti gli oggetti che gli ascoltatori di Melog segnaleranno saranno valutati dagli esperti della casa d'aste Cambi e i più interessanti potranno entrare a far parte del catalogo di Out of the Ordinary, un'asta di oggetti non comuni che aiuterà a sostenere un progetto per persone con cervelli fuori dal comune. L'asta sarà presentata a Milano il 2 aprile, in occasione della giornata internazionale per la consapevolezza sull'autismo. Tutte le informazioni su radio24.it e su asta.cervelliribelli.it. RadioTube Social Village. Allora, in questo momento siamo al Forte di Santa Tecla, antico forte costruito contro i sanremesi dai genovesi che temevano rivolte, poi fino a qualche anno fa un carcere, ora uno spazio anche per eventi, per mostre, e in questi giorni fino alla metà di febbraio ospita Sanremo 70 la mostra. È una mostra di un immaginario di tutta l'Italia. Uno dei curatori, Dario Salvatori, è qui con me. Dario, che bel viaggio! Beh, è stata insomma un'avventura, perché come dicevo poco fa, per fare queste cose bisogna avere passione. Senza passione vengono male queste cose, no? Quindi bisogna avere uno spirito di raccolta di tutto quello che vuoi, che è la parte più passionale di questo lavoro, però poi insomma i risultati arrivano, soprattutto se si sta in un'azienda che poi riesce a combinare, anche se questa è stata fatta, come diceva il direttore Marano, velocemente, insomma. Quindi qua c'è praticamente una storia dei costumi, dei video. I video forse era la parte che già conoscevamo, perché le reti trasmettono spesso e volentieri questo tipo di repertorio. Noi abbiamo fatto qualche cosina di più approfondito, e poi i vestiti, e là prevale il rapporto personale, no? Io ho chiamato la Zanicchi, ci ha dato tre vestiti delle sue tre vittorie a Sanremo. Orietta Berti ha partecipato a 11 Sanremo, non ha vinto neanche uno, però ci ha mandato quel vestito del 1986, quando cantava La barca non va più. Quindi ogni cosa ha una metafora, no? E poi naturalmente la storia reale, vera e propria, il vestito con cui Flo Sandals e Carla Boni vinsero il Sanremo del 53, e anche quello racconta già un pezzo d'Italia, no? Perché Carla Boni era sposata a Gino Latilla, cioè canto all'italiana, Flo Sandals era sposata a Nannarino Otto, l'uomo che introdusse lo swing in Italia. Quindi già vedi, ci sono delle posizioni che racconta una storia dell'Italia attraverso il costume. E poi c'è un abito che un po' ci spezza il cuore, a vederlo, un bellissimo abito rosso che non è mai stato indossato. Sì, stiamo parlando del vestito che Dalida avrebbe dovuto indossare nella finale del Festival di Sanremo del 67. Il brano non entrò in finale, lei lo cantava insieme a Luigi Tenco si suicidò esattamente per questo motivo e lei scappò immediatamente a Parigi la notte stessa e l'abito è rimasto qua, anche perché è di una stilista, Daphne Saremasca. E quindi è stato facile da reperire perché era già qua, ma con la morte nel cuore, hai ragione. Presenta quest'abito che intanto è meraviglioso. Intanto è molto emozionale, perché cosa vuole? È qualche anno che eravamo lì dietro a fare così, abbiamo fatto tante cose, abbiamo fatto due o tre di quei vestiti che poi sono stati esposti a Parigi al museo Galliera, quando hanno fatto la mostra, fatto la mostra di Dalida alla Galliera di Parigi. Ce n'erano tre dei nostri abiti fatti a... Ma io ne ho vestito tante di cantanti, anche la Nilla Pizza erano proprio le prime. Ma una volta si vedevano di più, perché una volta arrivavano anche il lavoro. Adesso arrivano già con tutta la valigia pronta, con tutti i vestiti nella valigia. È diverso. Noi avevamo anche dei papà, delle mamme. Andavano alla festa, ma noi in poche ore dovevamo fare un vestito a questa bambinetta, per dire, che portavano al festival. Capisci? Era diverso, era un lavoro molto più bello. Adesso... Lei cosa pensa dei vestiti di oggi quando guarda il festival? Io le dico stracci. Questa non è solo la storia di 70 anni di una manifestazione musicale televisiva, ci siamo noi dentro, ognuno di noi è legato a qualcosa di questa storia. È il fascino del festival, quello che ti ruba un pezzo della tua vita, no? E quindi tu attraverso una canzone, ma anche un filmato e credo anche da un vestito, riesci a capire chi eri, dove stavi, che facevi, chi amavi, quali erano i tuoi programmi in quel momento attraverso queste cose. Allora è un gusto di più lavorarci dentro, questo, no? L'ultima cosa che ti chiedo, sarebbe bello che questa mostra però non si fermasse solo a Sanremo, perché immagino che molti italiani sarebbero curiosi. Dovete pensare di portarla in giro dopo la metà di febbraio. Sì, io sono d'accordo e già ho suggerito questa idea, perché Sanremo non appartiene soltanto alla città che tiene banco nel festival. Io credo che questa rassegna, forse un pochino spettacolarizzata, andrebbe bene su qualsiasi città, insomma, secondo me ci si può pensare, ma realmente, effettivamente. Tu sei uno dei grandi storici della musica in Italia, sei un grandissimo storico di Sanremo, ma c'è ancora qualcosa che ti ha stupito, che hai imparato di questo festival? Beh, in generale tu dici, l'umanità di certi cantanti, le paure che non ti aspetti dai grandi veterani, invece ci sono, la magia di quel palco, sono tante le cose che mi stupiscono. E come una canzone apparentemente banale poi può diventare un pezzo d'Italia semplicemente perché la canta. Ecco, oggi è un po' sparita la cantabilità nelle canzoni e questo mi dispiace molto. La cantabilità è quella cosa che aiuterà sempre la canzone. E poi da storico posso dire questo, che la canzone c'era prima del disco, il disco è morto e la canzone c'è ancora. Ecco, questo ci fa capire che non è soltanto un discorso di supporti, è un discorso di cantabilità. Grazie a Dario Salvatori. Grazie a te.